Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi, grazie per aver scelto di essere in nostra compagnia. Siamo qui insieme ad Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Per occuparci sempre di relazioni tra genitori e figli, di sfide. Alberto, oggi un tema che sono certa ci farà molto discutere e che possiamo introdurre con una mail. L'ascoltiamo insieme e poi introduciamo i nostri ospiti. Purtroppo ci siamo arrivati, anche se avremmo voluto farne a meno. Dopo 20 anni di matrimonio, io e mia moglie ci separiamo, in mezzo a molti litigi e tante difficoltà. Il problema più grande è nostro figlio, Antonio. Ha 14 anni, è nel pieno dell'adolescenza e ci sta già mettendo a dura prova. Io vorrei portarlo a vivere con me e la mia nuova compagna, ma mia moglie si rifiuta, giudicandomi un padre inaffidabile. Io non mi sento tale e non vorrei passare i prossimi mesi, se non addirittura anni, a litigare di fronte ai giudici per proteggere la crescita di mio figlio, che nel frattempo, per l'appunto, cresce. 800 24 0024 se volete intervenire. Abbiamo Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Giorgio De Luca in redazione e assistenza, i messaggi al 349 238 6666. Certo Alberto, da una parte c'è il tema di come proteggere un figlio dai temporali che si abbattono sulla famiglia quando due genitori decidono di separarsi, dall'altro c'è il tema sempre più frequente anche nel dibattito mediatico della tutela del genitore più fragile, che nei casi di separazione sembra proprio essere il papà, i padri. Sì, sono proprio le due cose che mettiamo sul nostro microscopio oggi. Ci piacerebbe ascoltare le vostre storie, come è andata a voi se avete una storia di separazione e se vi siete separati proprio quando i vostri figli entravano in adolescenza. Quali attenzioni, quali precauzioni avete intrapreso proprio come coppia genitoriale? E se invece le cose sono andate male, cos'è successo? Perché l'ultimo aspetto, credo che questo è quello che un po' leggiamo su tutti i giornali, davvero in questi percorsi il papà è la parte debole, la parte fragile, la parte vulnerabile, un po' come scrive anche il papà di cui abbiamo ascoltato la mail. E a cui cercheremo di dare anche delle indicazioni, no? Dei suggerimenti per uscire, come ci scrive lui, da questo tunnel. Intanto è tempo di presentare le nostre ospiti. Abbiamo la dottoressa Paola Farinacci, ha collaborato alla stesura del volume Gruppi di parola per figli di genitori separati, curato da Costanza Marzotto, per Vita e Pensiero, uscito proprio di recente, il 2 ottobre, collaboratrice al servizio di psicologia clinica per la coppia e la famiglia dell'Università Cattolica e conduttrice di gruppi anche di adolescenti. Dottoressa Farinacci, buongiorno. Buongiorno a tutti. E lei ci aiuterà sulla parte più psicologica, ci farà capire cosa succede agli adolescenti quando la coppia dei loro genitori entra in un percorso di separazione. Con noi però abbiamo anche l'avvocato Laura Logli, è un avvocato familiarista, anche lei ha appena pubblicato per Cairo Edizioni un libro, Sposami ancora, dalla parte di lui, 1000 più ragioni, soprattutto economiche, per salvare il matrimonio. Ha proprio un paio di occhiali che guarda cosa succede agli uomini nei processi nei percorsi di separazione. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Lei ci aiuterà oggi sulla parte più legale, su quello che spesso succede nel conflitto tra mamma e papà e come un po' il giudice prende le decisioni, oppure come un avvocato accompagna una coppia di genitori per cercare di fare meno danni possibili, anzi per cercare di rinforzare le competenze genitoriali nonostante la separazione. Vi leggo subito un messaggio che arriva da Federico: che la gente ci pensi 3 volte prima di separarsi, soprattutto se ha figli. L'errore è lì, punto, che si lavori nella coppia, si può. Dottoressa Farinacci, allora proprio comincio da lei. Ogni separazione ha una storia a sé, naturalmente comporta molta fatica emotiva per tutti, padre, madre, figli, ma cosa bisogna fare attenzione in modo particolare quando la separazione interessa in una famiglia in cui sono presenti figli adolescenti? Partiamo da loro. Certo, ma io direi che come sempre quando ci sono dei figli, quindi anche degli adolescenti, questo vale anche per loro, a fronte della separazione bisogna porre attenzione alla loro posizione e ai loro bisogni. I bisogni dei figli sono diversi da quelli dei genitori. I figli non decidono la separazione e non devono subire il danno di perdere il rapporto con un genitore o con la stirpe di quel genitore, quindi con i nonni e con tutta la famiglia. I genitori decidono la separazione e i figli non devono essere costretti a schierarsi con uno dei due genitori, perché questo provoca in loro una grave lacerazione, un conflitto interiore che può essere espresso poi nel caso di ragazzi adolescenti con tanti tipi di disagio, la chiusura, l'aggressività, i comportamenti a rischio e tutto quello che a volte leggiamo anche sui giornali. Alberto, un tema che sta già scatenando molti sms che arrivano al 349-238-6666, le famiglie si dividono, i figli devono affrontare questa ferita, questa lacerazione. Prendiamo al volo l'sms di Luisa, 14 anni, il ragazzo potrà esprimere un'opinione, no? Almeno in casa, dire ai genitori ciò che vuole, e la giro un po' all'avvocato Logli, cioè i figli adolescenti in qualche modo sanno vedere, sanno pensare, sono parte non solo passiva ma attiva, credo, in un processo di separazione. Che ruolo giocano all'interno anche del percorso legale? Vengono ascoltati? La loro opinione ha un peso per la decisione del giudice? Sì, diciamo che soprattutto con la legge del 2006, la legge sull'affidamento condiviso, è proprio previsto nel codice che i figli ultra dodicenni e qualora siano inferiori ai 12 anni, di cui sia verificata la capacità di discernimento, vengano ascoltati dal giudice. Diciamo che questo però è un disposto normativo che non sempre viene attuato, anche perché i giudici hanno grande reticenza nel coinvolgere un minore in quello che è un percorso legale, che viene quasi sempre ritenuto fonte di stress o di eccessiva ansia. Quindi la vera e propria audizione con il magistrato avviene abbastanza raramente. Sicuramente se viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio, ovvero quando i genitori litigano per l'affidamento del minore o per il suo collocamento o per avere un diverso diritto di visita, quasi sempre viene incaricato un psicologo, psichiatra, esperto in tematiche della famiglia, coadiuvato da due periti di parte, quindi come se fossero gli avvocati della parte psicologica, così che possa essere ascoltato il minore, indagato l'intero nucleo familiare, cercando in questo modo di dare una mano al giudice, fornendolo quegli strumenti che il magistrato non, per competenza professionale non può avere, e quindi dandogli un quadro psicologico di quello che è la volontà o l'aspetto psicologico dell'intera famiglia. Se è vero che viene riconosciuto per legge che il minore ha diritto di esprimersi e di manifestare le proprie preferenze, è anche vero che la legge non prevede che sia comunque lui a decidere, cioè non è mai un mezzo di prova questo, è un elemento su cui indagare, approfondire, ma non si vuole nemmeno dare al minore questo potere importante, diciamo, che è quello di decidere voglio stare con mamma, voglio stare con papà. Ecco, essendo sempre un minore, si pensa che sì, sia importante la sua decisione, ma in qualche modo siano poi grandi un po' a dover tutelarlo, proprio perché non venga anche eccessivamente responsabilizzato. Ecco, a metterci la testa, diciamo, sì. No, avvocato? Sì, sì, sì. Noi oggi parleremo di figli, ma non solo, parleremo anche dei padri che nei processi di separazione si sentono sempre più la parte debole dell'intera vicenda. L'abbiamo seguita anche oggi con Roberta Pellegatta proprio stamattina, se ne parla sui giornali. Forse in linea abbiamo proprio un padre, Salvatore, dalla provincia di Varese, 800 24 00 24. Benvenuto. Benvenuto. Buongiorno, salve. Niente, volevo raccontare la mia piccola esperienza, se posso. Certo. Niente, allora, io sono, ho 38 anni, ho una figlia di 2 anni e mezzo circa, sono separato dalla mia ex compagna da aprile di quest'anno. Allora, sì. io sono in affido condiviso, nonostante che sono in affido condiviso per andare a prendere mia figlia all'asilo nido devo chiedere il permesso alla mia ex compagna, e se l'asilo non ha il permesso della mia ex compagna, io non mi posso neanche presentare all'asilo a prendere mia figlia. Ecco, questa è una cosa. Salvatore, ma questa è una regola che le ha imposto l'asilo nido, cioè a lei? No, è una regola che ha messo il giudice, che praticamente io devo andare a prendere mia figlia dove la madre dice, dove la madre dice, praticamente ha messo questa regoletta assurda che non sta né in cielo né in terra, in un affido condiviso, che io devo prendere mia figlia dove la madre dice che io devo andare a prendere, o a casa sua o dei nonni materni. Sentiamo l'avvocato Logli. Avvocato. Ma diciamo che sì, disciplinare tutti gli aspetti della convivenza dei figli non è facilissimo, quindi l'affido condiviso è vero che sulla carta rappresenta qualcosa di decisamente più ampio per i papà. Sotto l'aspetto pratico logistico c'è quasi sempre il famoso weekend alternato e il giorno infrasettimanale, che possono diventare due quando non è il weekend di spettanza del papà. Quindi più o meno da quelle regole non si riesce a uscire. Dopo ci saranno casi come quelli dell'ascoltatore. Del nostro ascoltatore, appunto, che disciplinano così visite, prendere a scuola, così. Credo che in linea di massima si cerchi sempre di lasciare anche le intese dei genitori, cercando di applicare il loro buon senso, perché sennò bisognerebbe veramente giuridicamente seguirle 24 ore su 24. Certo, avvocato, però molte volte i padri si sentono proprio parte debole nel momento in cui in un affido condiviso viene addirittura regolamentato il ritiro del bimbo al nido, che è possibile solo se la madre lo prescrive. Ma questo mi sembra abbastanza strano, diciamo che se si dessero l'indicazione dall'inizio che quello è il suo giorno di, adesso dovrei sapere se quello è il giorno che spetta al papà o se è un di più dato, così a seconda di quando il papà ne faccia richiesta, e allora si specifica sempre dandone congruo preavviso o comunque con l'assenso della mamma, proprio perché si crei un po' di regola e non l'anarchia più totale, che magari due genitori insieme si recano a scuola e si litiga. Ecco, quindi se ci sono dei giorni fissi credo che sia corretto darne indicazione agli operatori scolastici. Salvatore vuole ancora in linea rapidamente per dare la voce anche ad altri ascoltatori. Sì. Allora, riguardo i giorni, sono i giorni in cui io dovrei andare a prendere mia figlia, cioè il martedì e giovedì, per cui devo sempre chiedere il permesso. E poi un'altra cosa, voglio aggiungere un'ultima cosa, il giudice ha avuto il coraggio, perché il problema non è solo le donne, perché le donne è proprio il minimo problema. Il problema sono i giudici che non applicano la legge, non applicano l'affido condiviso. Ci sono milioni di padri nella mia stessa condizione che veramente subiscono angherie di ogni tipo dalle proprie compagne. Ed effettivamente ci sono associazioni di padri separati che, proprio come dice Salvatore, cercano in questo momento di tutelare l'interesse dei padri. Andrei a ascoltare Alessandro da Roma. Buongiorno. Ciao. Alessandro. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Alessandro, un saluto agli avvocati in studio. Sì. Senta, io sono separato nel 99, novembre 99, divorziato aprile 2003. Sì. Grazie a Dio, una situazione con due figli, adesso uno 17 e uno 14 anni. Non ho problemi io prendo i figli quando voglio, come voglio. Adesso sono andato a Frosinone, l'ho portato con me, uno ci ho dormito, adesso sto tornando a Roma. E loro abitano a Ostia. Sì. E volevo sapere, visto che il secondo figlio è il primo anno di superiori, il secondo ha perso già due anni per circostanze, non è stato bene a scuola, adesso sta facendo di nuovo il secondo. Volevo sapere se ci sono delle... se il giudice con un ricorso al tribunale può cambiare insomma, io ho lasciato, c'è da dire, ho lasciato la casa con i due figli, la casa mia ho lasciato per do gli alimenti per i bambini. Quindi lei, Alessandro, sta dicendo che se forse si interessasse più lei della parte scolastica dei figli, l'insuccesso... Sì, perché la madre non ha, avendo fatto solo la terza media, non... Ok, allora io direi due aspetti importanti. Il primo, per la dottoressa Farinacci, l'insuccesso scolastico di un adolescente quando i genitori si separano può essere correlato alla fatica che sta attraversando in questa fase della sua vita? Dottoressa, bambino. No, chiediamo alla dottoressa Farinacci, perché anche dai messaggi che arrivano, anche di figli, no? di separati, ormai diventati adulti, proprio sottolineano questa fatica anche scolastica e la imputano a questo clima familiare molto difficile. Dottoressa Farinacci, è un segnale proprio di disagio? Certamente, l'insuccesso scolastico è una tipica modalità con la quale gli adolescenti in qualche modo attirano l'attenzione su di sé da parte dei genitori e l'attenzione delle persone che stanno loro intorno, e questo naturalmente avviene laddove c'è una sofferenza, c'è una fatica a vivere la situazione della famiglia. I ragazzi adolescenti esprimono in maniera forse meno diretta che i bambini più piccoli la loro sofferenza, e lo fanno appunto attraverso comportamenti che vanno decodificati da parte dei genitori. Allora, qualche volta andar male a scuola significa occupatevi di me. Sì. Ecco, e sull'occupatevi di me mi piacerebbe sottolineare come dal punto di vista dei figli, che come dicevo prima è diverso da quello dei genitori, profondamente diverso, perché sono ovviamente delle altre persone rispetto ai genitori, come questo occupatevi di me è occupatevi tutti e due di me, cioè sia mamma che papà, noi crediamo, proprio nel caso che portava l'ascoltatore che adesso ha telefonato, possono essere aiutati a collaborare per essere vicini al figlio che in questo momento sta sperimentando l'insuccesso scolastico. Il papà forse in questo caso con la sua maggiore istruzione, con la sua maggiore capacità di affiancarlo negli studi, e forse la mamma con altre modalità che le saranno proprie, che non sono quelle dell'affiancamento negli studi. Quando la separazione entra in una famiglia e i figli ne pagano le conseguenze, ma forse ci sono padri o ci sono madri che pagano molto alto questo fallimento, lasciatemi usare questo termine. Abbiamo Silvana che ci chiama da Pordenone. Silvana, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione, ma anche per tutta Radio 24, perché vi ascolto veramente dalla mattina alla sera. Niente, io guardi, di mestiere faccio la ristoratrice e io tengo che ci sono il 5% di popolazione che è vegetariana. Sì. Così gli uomini che veramente ci tengono ai loro figli sono il 5%. Tutto il resto è una cosa da panico. Porto la mia esperienza, mi separo per violenza in casa e lui pretende che i suoi figli, cioè avevano 17-18 anni, anzi 16 e 15, scusi, in tribunale a testimoniare di quanto lui era bravo. Cioè, vabbè, il risultato naturalmente aveva pieno torto, perché aveva un condominio che testimoniava contro di lui. Però dico, un padre che porta le figlie in tribunale a testimoniare quanto lui era bravo, che non c'era mai. Perciò io dico, è vero che ci sono dei padri, non discuto, che sono bravi, li vedi, ma sono così pochi, che fanno veramente quasi tenerezza. In compenso non li definirei io l'anello debole o i più deboli, perché sono veramente, poi si vedono in Italia, ogni due giorni viene ammazzata una donna perché chiede la separazione. Sì, questi sono altro da aggiungervi, faccio i complimenti. Grazie. Per radio. Grazie. Io Alberto. Chiederei alla dottoressa Farinacci, che conduce i gruppi di parola con figli adolescenti di genitori separati, cosa i figli adolescenti raccontano dei loro padri, e loro riescono a intuire che un genitore è più vulnerabile di un altro, ed eventualmente qual è nella vostra esperienza il genitore più vulnerabile? Sì, direi che i ragazzi che vengono ai nostri gruppi per adolescenti, come tutti i figli dei genitori separati, hanno le idee molto chiare, comprendono, hanno un punto di vista interno, anche se di grande sofferenza, su quello che avviene tra i genitori in una separazione. Sono anche molto preoccupati per i genitori, quindi da un certo punto di vista è vero che si pongono il problema di qual è il genitore più debole. però diciamo sicuramente la loro preoccupazione è una preoccupazione dal punto di vista dei figli, che ha diciamo delle sfumature profondamente diverse della preoccupazione che noi possiamo avere da persone adulte. Certo che vedono la sofferenza dei papà che devono uscire di casa, questo per loro è molto chiaro, vedono però anche le sofferenze delle mamme che magari rimangono sole a gestire le situazioni. Hanno, diciamo, proprio qualche volta si fanno carico della sofferenza dei genitori, e credo che questo sia molto importante che noi adulti abbiamo chiaro, che è un atteggiamento, un comportamento che va disincentivato, cioè i ragazzi vanno sollevati dal farsi carico della sofferenza degli adulti, proprio perché, come dicevo, sono in mezzo tra di loro e sono fatti e sono parte di loro. I ragazzi in questi gruppi cominciano anche a riflettere su se stessi quando sono un po' più grandini, riflettono sul significato dell'amore, sul significato delle relazioni tra le due persone, e qualche volta il rischio può essere che le conseguenze negative che loro traggono sono conseguenze che fanno valere per se stessi, cioè in qualche modo perdono la speranza e la fiducia nelle relazioni. E allora da questo punto di vista è molto importante che i genitori possano mantenere un asse comunicativo, possano mantenere la possibilità di portare in salvo, noi diciamo, una parte della relazione, che è quella genitoriale. È un po' il lavoro che si fa in mediazione familiare, che è un altro intervento che noi conduciamo affiancato ai gruppi di parola. È vero che una coppia si separa come coppia, ma è vero che genitori si rimane sempre. Per tutta la vita. Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Sì, io... a me è stato sottratto un figlio di 5 mesi, senza la mia volontà. Mi sembra assurdo fare un discorso di percentuali. Esistono padri indegni, madri indegne, e vanno valutati caso per caso. Questa è la prima cosa su cui bisogna riflettere. Darei subito una battuta all'avvocato Logli. Avvocato, sì. Nella realtà è così? Sì, concordo, cioè ci sono, ecco, la telefonata precedente dove si faceva riferimento alla violenza, certo. Il papà che non è un buon papà, ma c'è questo solo 5%, nella mia esperienza professionale posso dire assolutamente di no. No, ma noi non stiamo qua per dire, per sottolineare percentuali, per dare dei numeri a caso, per dire che la pagano sempre i papà o la pagano sempre le mamme. Io direi storie. Che i figli sono quelli che poi pagano il prezzo più alto. Francesco, quindi? Sì. Io credo di essere un padre degno, nel senso che amo mio figlio, credo di aver conosciuto l'amore nel momento in cui sono diventato padre. L'amore profondo l'ho conosciuto diventando padre. Ho fatto delle cose per poter vedere mio figlio veramente pazzesche. Ho fatto in 7 mesi centinaia di migliaia di chilometri per poterlo vedere, perché mi è stato sottratto e portato a 300 chilometri di distanza dall'abitazione. Tra l'altro sottratto con dolo, sono stato mandato a fare la spesa di Natale, quando sono tornato a casa la casa era vuota, il bambino aveva 5 mesi, ho dovuto lottare per convincere le persone che io, con le quali interloquivo, che c'erano delle problematiche psicologiche sia da parte di mia moglie sia da parte della madre, che poi è risultata una psicotica conclamata certificata, e nessuno è potuto intervenire per obbligare ad una mediazione familiare, perché io sapevo che attraverso una mediazione familiare mio figlio sarebbe stato salvato. Io purtroppo sono un addetto ai lavori, non sono uno psicologo, uno psichiatra, ma lavoro con i ragazzi, e come addetto ai lavori so perfettamente che sarà sempre mio figlio a rimetterci in questa non comunicazione che c'è tra noi due. Una comunicazione, tra l'altro, che è consolidata dal fatto che io, per esempio, dalla perizia psichiatrica che ho chiesto e che per fortuna ho ottenuto in fase presidenziale, è risultato che avrei dovuto seguire un percorso psicologico che ho seguito, e la persona invece che è risultata psicotica non lo ha seguito e non è stata obbligata a farlo. Adesso che siamo in fase di divorzio, ancora adesso io mi trovo a dover portare alle esasperazioni delle mediazioni personali per evitare che il bambino subisca ulteriori pressioni, eventualmente in una causa non consensuale, perché nessuno da fuori può intervenire, perché la cosa non può essere obbligatoria. Certo. Alberto, noi abbiamo ancora veramente un paio di minuti. Francesco ci ha raccontato una storia molto dolorosa, abbastanza frequente, avvocato Logli? Allora no, con questi casi estremi non, fortunatamente non sono così frequenti. Io trovo molte persone anche che hanno voglia di fare accordi, di fare delle consensuali. Mi sembra il concetto, secondo me la realtà dura per gli uomini è quella che sostanzialmente, se vogliono vedere di più i loro figli, devono in qualche modo dimostrare una incapacità della mamma, perché per scontato si dà che la mamma tenga per molto tempo i figli, sia il genitore collocatario, e il papà può rosicchiare un po' di tempo, salvo dimostrare che la mamma sta male, ha dei problemi molto gravi. Ecco, questo che ormai è un dato di fatto, cioè non diremmo delle bugie se non ammettessimo che è così. A volte può essere molto doloroso e non sempre giusto, ecco, perché specie in un caso, se è vero quello che racconta il nostro ascoltatore, sì, non abbiamo quindi nessuna ragione per dubitare che si parla di certificazioni, sì, di malattie, di dati piuttosto gravi, ecco, quello potrebbe essere un caso in cui si può pensare che un minore ne abbia anche un pregiudizio, che perché non rivolgersi allora al papà come collocatario. È sempre per loro è vero che è sempre una corsa a dimostrare qualcosa che forse non dovrebbero dimostrare così tanto di dover avere. È una corsa agli ostacoli proprio per dimostrare, sì, che in qualche modo non hanno questi difetti che si presuppone che per il semplice fatto di essere padre uno dovrebbe avere. Alberto, ma in conclusione, abbiamo meno di un minuto, direi alla dottoressa Farinacci se ci dice due frasi che un figlio adolescente all'interno dei suoi gruppi di parola direbbe dopo aver ascoltato la trasmissione di oggi. Io vi posso dire quello che un figlio adolescente in un gruppo di parola dice e ha detto, nel senso che questa è un'esperienza che noi abbiamo periodicamente, incontriamo i ragazzi in questi gruppi. Ad esempio, mi sembra molto centrata la frase di un ragazzo che dice: è sempre difficile dover scegliere, soprattutto se si è sotto pressione. Per alcuni motivi vorrei stare con uno e per altri con altro. Mi sembra una esemplificazione molto chiara della perfetta, posizione dei figli. Perfetta, grazie. Grazie alla dottoressa Farinacci, all'avvocato Logli, grazie a voi, grazie, che come sempre ci seguite, ci sostenete, e buon sabato da Nicoletta Carbone e da Alberto Pellai.